Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Portiamo le tue notizie, portiamo buone novelle. Auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Però ci piacciono i dolci, però ci piacciono i dolci, però ci piacciono i dolci, sudacene un po'. Finché non ti vengono i dolci,